Eccoci, anzi, tornati su Radio Bawalla. Sono le 16.51 di questo sabato 20 aprile ed è arrivata l'ora X, l'ora T. Il nostro ospite. Vi presentiamo Tufu, nostro rapper porediese, che è venuto qua a portarci il suo nuovo album, Karma. Allora, innanzitutto, ciao. Ciao ragazzi, grazie per l'ospitata. Come ti chiami innanzitutto, allora, in realtà? Sì, ok. Mio nome è Simone Taltaglia Ciampi, in arte Tufu, nome che mi porto dietro da tempo in memoria, insomma. Ah, ecco, perché questa era una delle prime domande che in realtà mi venivano in mente. Da cosa deriva? Esatto. Da cosa deriva? Dal mio cognome alle elementari per prendermi in giro, Taltaglia, Tartufo, e poi è rimasto questo... Ah, è rimasto Tufu. Tufu. E l'ho usato anche come nome d'arte, visto che mi identifica abbastanza. Ah certo, sì, è stato... sì, ti è rimasto incollato e te lo sei portato dietro. Esatto, bene. Esatto. Ma allora, io ti... come... non so se ci stavi sentendo fino in questo momento. Sì, sì. E stavamo parlando, siamo partiti dal Record Store Day. Quindi una cosa che voglio chiedere anche a te è quella che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori. Cioè, qual è l'ultimo disco che hai comprato? In che formato? Dove? Ok, l'ultimo disco che ho comprato è Guerra e Pace di Fabri Fibra. Comprato al GameStop perché c'era il formato speciale, doppio disco, insomma. Sì, sono casus belli, vero? Sì, spero che conosci. E più in generale tendo poco a comprare su iTunes, anche se uso iTunes soprattutto per i dischi che a volte non escono subito in formato CD, perché disco, molti artisti... Sì. Ultimamente preferiscono metterlo solo su iTunes o per le tracce singole, che a quel punto scarico la singola traccia. Certo, certo. E quindi, allora, quindi CD comunque? Tendenzialmente compro CD, sì. Tendenzialmente CD. E vabbè, solo Filippo c'ha questa fortuna di sto giradischi che... ma il vinile, non ho il... ho qualche vinile, ma da collezione, nel senso che non ho il lettore, quindi... esatto, la stessa situazione mia, anche io ho qualche... qualche vinile da... qualche CD, ci sono più CD che vinili a casa. Sì, comunque. Sì. Pensa che io ho trovato l'audiocassetta, scusami, di The Dark Side of the Moon. L'audiocassetta non varrà un cazzo probabilmente rispetto a un vinile, però insomma io me la tengo stretta, si sa mai. E poi anche, ma lo dico molto più a bassa voce, quello di Madonna True Blue. Non so perché stesse a casa mia, non intendo neanche saperlo. Allora, tu sei venuto e ci hai portato questo bell'album. Innanzitutto sì, un bell'album. Grazie. Nel senso, ma anche proprio fisicamente, con una bella copertina. Sì, ho curato tutto abbastanza nei minimi particolari, dalle tracce al mixaggio, alla copertina. Non mi piace fare le cose a metà o buttarle un po' lì, diciamo. Certo. Abbastanza strutturato come disco. Diciamo che è un album proprio dalla prima all'ultima traccia, non sono dei pezzi buttati lì a caso. No, il disco ha un concept che si basa sul karma, quindi in ogni traccia interpreto un personaggio diverso, una rinascita diversa. Quindi interpreto vari personaggi nello stesso disco, mi è sembrato un modo per rappresentare le varie sfaccettature del mondo, diciamo. Questa è un'altra cosa che colpisce, cioè... sotto, girando il disco, tra l'altro, per chi volesse, sul nostro sito, nella sezione news dove abbiamo parlato del disco ieri, sì, c'è la foto sia del retro che della copertina del front, esatto. E sotto le canzoni c'è una piccola definizione. Sì, una piccola definizione che spiega chi è che il personaggio. Il personaggio della traccia, dall'innamorato al playboy. Ho cercato di contrapporli ad uno, poi non sempre è proprio così rigida la questione. Comunque, di solito innamorato, playboy, spazzino, pubblicitario, insomma, si contrapposti, certo, ad una, insomma. Poi c'è il laureato dotto, il politicante invece ignorante, sono tutte così, in un... quello che hai un definito... equilibrio del calma, insomma. Esatto, un ciclo di morti e rinascite. Esattamente. L'hai definito così e mi sembra un'ottima definizione. Allora, io direi che ci sentiamo il primo disco. Allora, io vi avviso già che, insomma, partiamo belli forti, partiamo con un brano bello denso e che ha scelto il nostro direttore artistico e ci tiene a farlo sapere, mandandovi un saluto. Allora, ce lo sentiamo, Il filo della ragnatela. giornaliero da TG Parlamento, scrivo su autonomamente se voglio l'autonomia dell'Italia dell'Ovest, contro ancora la donna e la mia mente autonoma non è un'automa, ma è monotonia, non seguo la politica per essere di parte, ne sono parte in causa, ma farei causa pure alla mia parte, ne parte per la tangente, la parte dell'imprenditore che parte la tangente, e basta, la parte cipazione alla corruzione per definizione di due persone, tranne che nel caso Mills si è corrotto da solo, ci basta come risposta, e a me sta bene ma non sto bene, perché mi mancano le spine, ascoltatore, la politica mi evoca bei ricordi tipo il cognome di Bottino, e non sono un fumatore, più che l'auto blu c'è un autopasto dove mangiano il festino con ragazze che si bagnano, ma mica piove, ma che cazzo vuol dire escort, non fan parte della scorta di Belpietro che spara alla porta, per un finto attentato, l'attentatore non esiste, tranne che per porta a porta, vendita porta a porta, porta la Vespa e vaffanculo. Intimo loro, onestà e trasparenza, ma l'unica loro trasparenza è quella dell'intimo della squillo, e sarebbe troppo banale parlare ora di cellulare, ma preferisco l'anarchia a sto schifo come ciò squillo, l'infamazione a mezzo stampa, ma la stampa non è più il mezzo di comunicazione dell'invenzione delle email, il giornale stampa una copia, chi lo copia? Meglio se all'ustri adustica schiantato nella terra di mezzo, da un guardrail, notizie fittizie come quella sull'ONU e i gay, senza riportare la puntuale smentita, il loro ritardo è solo mentale, se difendono un igienista dentale sotto una mentita spoglia rellista, non sei veramente libero anche se scrivi su Libero, mi facci è sgrammaticato, quindi me ne libero, l'etimologia della morte nel simbolo di Ado, ironia della sorte Rupi, e il caso capita un lato con un senso di onestà molto lato, nel senso che ha lato dell'onestà, come sta con uomini di mare in barca col peso tutto sul lato, e ciò che manca all'Italia è l'onestà in senso lato. Però false indicazioni, io ho tante informazioni, però false. Travaglio prescritto, non rinuncia alla prescrizione, no. La denuncia di Previti lo ha messo nell'iscrizione degli indagati poi condannati, come chi lui detesta, ma se decapito la sua testa finisco con i dannati. Santoro non è né santo né oro, spiega indagini giudiziarie con dei cartoni animati, ma se ospiti sgarbi è ovvio che finisca a cartoni, ma non è che un'anima anche se hai ospiti animati, dell'utra entra in politica per non farsi arrestare, cuppare un segno ai figli, come farsi arrestare, e rispettare una sentenza facendosi rispettare. Scemo io che pensavo gli insegnasse a non fare il criminale. I politici sono come i denti, quelli senza giudizio sono i più incisivi, loro sono una finestra per la massa, la mia massa controlla i loro segreti nascosti da terminale, come con gli applicativi, per terminare bisogna determinare il punto senza costi aggiuntivi, vedere se ci arrivi, il nostro stato è malato, io non ci punto, punto perché è uno stadio terminale, come gli arrivi. Elliot, l'unica cosa buona. Eccoci, eccoci, l'avete sentita? È una bella bell'inizio, eh? Complimenti. Sì, sì, questo era il politicante ignorante. Esatto. No, ma senza nessun riferimento a casi e fatti anche attuali, anche odierni. Beh, odierni è qualcosa di nuovo, sì, sì. Sì, sì, infatti sappiamo che in tanti state seguendo, insomma, come sta andando la giornata politica. Aggiornateci anche ogni tanto, che noi siamo qua chiusi a fare ma radio. Tanto si sa già come finisce, guarda, ascoltate noi piuttosto che seguire. Esatto, basta, tanto ve lo leggete domani sul giornale, ascoltate noi e con Tufu. Allora, innanzitutto volevamo, prima di continuare l'intervista, volevo salutare anche Lorenzo che ci scrive e ci dice: l'ultimo disco che ho comprato è stato Profondo Rosso degli Assalti Frontali. e la registrazione di Still Alive dei Daft Punk alla FNAC a Torino. Quindi un luogo proprio classico che ha sostituito un pochino la come si dice? Il vecchio negozio. Esatto, il vecchio negozio di disco, quello del Record Store Day di e ultimamente oggi. Comunque con questa crisi anche la FNAC è stata costretta a chiudere diversi centri. Sì. Ma noi torniamo alla nostra musica Creative Commons e a un nostro nuovo artista Creative Commons che è Tufu. Ok. Eccoci qua. Allora, eccoci abbiamo qua. Sentito questo brano qua e io quello che posso notare è che anche a partire dal prossimo che sentiremo, il disco è pieno di collaborazioni. Sì, un sacco di collaborazioni. Diciamo che sono per lo più amici, conoscenti con cui condivido questa passione. Ad esempio i Pionieri del Domani sono Fix e Laia, abbiamo iniziato a fare musica insieme, anche se non abbiamo mai fatto proprio lavori completi come dischi insieme, abbiamo sempre collaborato, stessa cosa per Lesi. Anche le produzioni, che sono alcune appunto della collaborazione alla prossima traccia, che è Ichi, alcune mie e altre di Giocazama, che è sempre un produttore conosciuto nel giro. L'unica collaborazione un po' a sé stante è quella con una cantante, Federica, che ho conosciuto per vie un po' particolari, nel senso che era un periodo che avevo scritto una canzone con una mia amica, tra l'altro poi non ho più sentito perché è sparita un certo giorno. Ha smesso di rispondere, è sparita, mi serviva una cantante e tramite amici comuni ho trovato questa Federica che è molto brava. E che sentiremo poi nell'ultimo brano che sentiremo nella giornata, quindi Cyber. No, non parlo di brani che non sentite, così almeno... esatto, così almeno potete andarli a cercare. Dove le possono cercare il resto delle tracce? Beh, il resto delle tracce le trovano su YouTube, canale Too Fast, Too Furious, scritto proprio come si legge, all'italiana volgarmente. Sì. Oppure... che è poi anche il tuo nome su Twitter, per chi ti vuole. Sì, il mio nome, ma perché sì, in realtà perché Tufu sono solo quattro lettere, quindi non posso creare dei nomi account con quattro lettere, quindi faccio Too Fast, Too Furious per il gioco di parole che ci sta dietro, insomma. Certo. Oppure su Facebook, sempre Too Fast, Too Furious, il nome della pagina, o la pagina si chiama Tufu. Tanto noi la rimanderemo, anzi sei già taggato nell'ultimo stato che abbiamo scritto. Ottimo. E quindi li potete cercare là e prossimamente immagino anche su Giamendo. Sì, ho caricato stanotte su Giamendo e adesso ci va un paio di giorni perché devono moderare il disco e poi dopo lo potete ascoltare anche su Giamendo, appunto. Perfetto, quindi ascoltare e scaricare, oltre ovviamente a quando lo sentirete passare qui su Radio Bawalla. Certo. Ma un'altra cosa sì. Che mi viene in mente, il concetto questo di karma, di ciclo di questo ciclo di personaggi, come ti è venuto in mente? Ma a me è sempre piaciuto creare delle situazioni nei miei precedenti lavori, anche in questo. È venuto abbastanza spontaneo perché nel penultimo lavoro, che era molto più amatoriale, nel senso che registrato con mezzi un po' meno professionali, eccetera. Era un viaggio all'inferno in cui alla fine del disco rinascevo, e quindi ho pensato perché non estendere questa cosa ad ogni singola traccia? Rinascere in ogni traccia. Ah, mi è venuta così l'idea. Ah. Eh sì, in effetti, ma sai che inconsciamente, se posso fare un parallelo, quando io ho letto, parlavo prima dei sottotitoli di queste canzoni, sì. Mi veniva un pochino in mente la come si chiama, la Spoon River di André, in cui sono identificati il medico, il insomma tutti così personaggi, per cui, esatto, quindi sì. Questo ciclo di morti e rinascite in realtà è la prima cosa, prima ancora di sentire il CD, istintivamente mi era venuto. Ho capito. E quindi sentire che il concetto è venuto anche da un altro album così, insomma, mi rende più felice di averlo capito. Ok, più felice. Io ora lascerei annunciare il prossimo pezzo a Tufu. Okay. Lo annuncio io? Ok. Scelto sempre dal direttore artistico, Calma, collaborazione di Ichi, sia alla voce che come produttore della traccia. Sempre su Radio Bawalla. Vai. decade per un motivo. Ciò che decade, chi lo motiva? E in ogni loco il calma è la locomotiva. Tutto accade per un motivo. La notte cade per un motivo. Ciò che decade, chi lo motiva? E in ogni loco il calma è la locomotiva. Calma samsara è un ciclo di molte rinascite con principio di causa con causa. Rinasco in ogni traccia dentro un nuovo personaggio. Ma è un karaoke in cui non canti tu come al samsara. Chi è di Ivrea mi intende, distruggi la livrea del tuo nemico, ma poi quello si riprende. Qualcuno dall'alto ti riprende di nascosto, ma il presupposto è che succede il volere opposto. Voglio fare sesso ma sono vergine, poi trovo una del segno della vergine. Penso che sia destino, mi impegno e ci destino tutto me stesso, nel senso che alla vergine io insegno supino. Il calma è quella ruota su cui tutto si bilancia, e la sua bilancia ruota ma con calma. E quando trovi l'anima gemella, ma poi scopri che non è tanto gemella, e neppure senza anima. Tutto accade per un motivo. La notte cade per un motivo. Ciò che decade, chi lo motiva? E in ogni loco il calma è la locomotiva. Tutto accade per un motivo. La notte cade per un motivo. Ciò che decade, chi lo motiva? E in ogni loco il calma è la locomotiva. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Vedi, oggi il nome dell'amore ed è stata la riprova che col cazzo che tutto torna. Ma se è vero che chi rende bene per male esaurisce le proprie cariche karmiche, allora fisicamente mi trovo reattivo al suo aroma, con il nulla che mi divora e l'anima in karma coma. E oggi non c'è nota né parola che possa causare un risveglio. Questione di tempo, questione che esaurendo il karma non è detto che possa sortirne alcun beneficio. Ma spero nella tempesta e nel battito d'ali di una farfalla. So vero che per ogni lacrima versata corrisponde un sorriso e vi si solchi sul viso. Attendo che la notte cada sperando che sulla mia strada ci sia qualcuno pronto ad aiutarmi a raccoglierla. Tutto accade per un motivo. La notte cade per un motivo. Ciò che decade, chi lo motiva? E in ogni loco il calma è la locomotiva. Tutto accade per un motivo. La notte cade per un motivo. Ciò che decade, chi lo motiva? E in ogni loco il calma è la locomotiva. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Fai qualcosa con un fine, ciò che fai distrugge quel qualcosa che a sua volta distrugge quel tuo fine. Di che cosa stai parlando? È figlio suo, stupido. Non dire una parola. Eccoci qua. Questa era Karma con Ichi. Tufu la title con track, Ichi. Sì. Esatto. E il sottotitolo qui era Il religioso credente, che sì, va a contrapporsi alla traccia prima che era Il complottista credulone, che è una traccia con un'altra collaborazione che ho dimenticato di citare prima e cito adesso, se no magari si sente offeso, che è Kai. Che parlava appunto dei Maya del sì, un po' il 21 mondo, dicembre. Il mondo alla Giacobbo. Sì, il mondo alla Giacobbo, insomma. Un pochino così. Io tra l'altro ho notato che, come si dice, io e il direttore artistico abbiamo gusti un pochino diversi. Sì? Io avrei passato quella prima, appunto, del mondo alla Giacobbo, e anche del filo della ragnatela avrei passato in realtà dottore, perché è quella prima. Dottor Rap, perché... Sì, e quindi, vabbè, non importa. Le tracce le ha decise lui, queste due che abbiamo passato sono comunque, mi piacciono comunque molto, e per le altre... No, non c'è Astia nelle mie parole. Non c'è. Dillo adesso o taci per sempre. No. Diciamo che l'ultimo brano per riequilibrare l'abbiamo fatto scegliere direttamente a te. Poi ce lo sentiremo dopo. Sì, l'ultimo brano l'ho scelto io, vede. Che è un pochino più particolare dal punto di vista dei suoni. L'ultimo brano è Cyber Tufu. Sono una specie di bambino supereroe, insomma, ed è cantato da questa cantante Federica, molto brava. L'ho scelto per la particolarità, diciamo, di quello, infatti. Ma allora, fino ad adesso, quindi adesso avremo una moltitudine di modi per sentire il disco e tutto. Fino sì. ad adesso, insomma, come era distribuito? Se uno volesse il disco fisico. Se uno vuole il disco fisico, o mi scrive ovviamente su Facebook, Twitter, sempre Too Fast, Too Furious, anche YouTube. Oppure c'è da Snatch, il negozio che è in Piazza del Mercato ad Ivrea, che vende vestiti abbastanza, diciamo, adibiti al genere rap. Se fate un salto lì c'è il CD anche in copia fisica. E ho visto che hai anche fatto una presentazione del disco qualche giorno fa. Qualche giorno fa, un po' di più, un mesetto fa. Sì, mesetto, sì, sempre lì sì. nel negozio, visto che abbiamo occupato il negozio. No, scherzo, ci ha dato la disponibilità per il negozio per fare una presentazione del disco live. Andata abbastanza bene, insomma. Il giorno che avete aperto la radio, tra l'altro. Urca! Ah, ecco, quindi ci siamo fatti concorrenza. Il karma ha voluto che... Esatto. Il karma ha voluto che adesso le nostre storie, i nostri fili si reintrecciassero sì. E vediamo di costruire qualche cosa di buono insieme. Certo. Visto il tuo ultimo disco comprato, direi che come influenze c'è sicuramente Fabri Fibra. Correggimi se sbaglio. E poi anche altro, ovviamente. Ma come influenze, secondo me, sugli ultimi lavori sono, almeno non so se mi ritengo talmente una cosa a sé stante dai vari dischi che ascolto, perché diciamo che adesso ormai sono almeno 10 anni che comunque mi sono avvicinato alla rap da una cosa e l'altra, tra vari demo, ascoltare comunque, eccetera, sì, sì. Quindi sono più influenzato dal me stesso precedente che da altre influenze esterne. Inizialmente i primi che ascoltavo sì erano Fibra, Bassi, prima ancora gli Articolo, ovviamente, quando ero sì, più piccolino, essendo quelli più poi vivi. Dogo, i One Mic, con cui facevamo anche qualche serata insieme, che sono di Torino, insomma. Quindi uno spettacolo molto molto vario. Sì ma poi... ascolto abbastanza di tutto, non compro magari tantissimi dischi in proporzione, perché quelli che compro poi sono quelli che proprio consumo da ascoltarmi magari, cioè da ascoltarmi in loop completo. Se c'è un disco di cui mi piace qualche traccia, me l'ascolto su YouTube o su Spotify, esatto, che su avete Spotify. Citato prima. Esatto, il nuovo Spotify. E, no, beh, però all'interno comunque di queste influenze così varie hai uno stile molto particolare, cioè molto riconoscibile. Quello che commentavamo assieme con altri è che io parlo della scena rap, ad esempio, di Torino, che comunque c'è. Ed è sì, molto, sì, molto forte la scena Torino. Molto forte, che comunque ha un minimo comune multiplo, sì. Che è un pochino il modo di cantare in qualche maniera. Cioè, sì. Mentre il tuo lo trovo personalmente molto particolare. Sì, diciamo che non ho avuto molti contatti neanche con la scena di Torino, quindi... ho sempre cercato, diciamo, di fare le cose mie. Poi le collaborazioni mi piacciono, però non ho mai cercato, mi ricordo quando avevamo 15-16 anni, la fissa di quelli che facevano rap era trovarsi un gruppo. La mia, no, è sempre stato di rimanere un po' più defilato, chiedere collaborazioni, per carità, non, certo. Anzi mi fa piacere, però non legarmi a un gruppo, a un'identità che poi magari non sento più mia dopo qualche tempo, perché la vita cambia, eccetera. Sì, certo. E a proposito proprio di questo gruppo, qua abbiamo alcune curiosità che ci arrivano, sì? che sono un po' quelle che vengono dalla visione del rap un po' alla 8 Mile, no? Sì. Per cui quelle robe tipo battaglie freestyle, quelle cose lì? Robe tipo battaglie freestyle, io personalmente non le ho mai fatte, perché non mi ritengo all'altezza, non sono molto bravo ad improvvisare. Sono capace a far freestyle, perché bene o male dopo anni che scrivi testi, parole, le parole ti vengono. Però non sono uno che ti fa magari le rime da battaglia. Quindi l'ho fatto sempre più con gli amici in Piazza del Mercato, ai giardinetti, insomma, con la macchina e lo stereo, quindi, insomma. Quindi esatto, molto street, se vuoi. Esatto, molto street, fermate le macchine, due macchine vicine, vi fate la serata, sì. Esatto, una cosa del genere. Anche perché comunque, dallo stile che si sente nel disco, non è una cosa che immagino, cioè immagino che sia frutto di un bel lavoro sul testo. Cioè non è una cosa che si può improvvisare. No, cioè nel senso c'è gente che improvvisa molto meglio di me ed è molto brava magari a scrivere testi, cioè ad improvvisare parole. Io peso ogni parola, cerco di mettere ogni parola al posto giusto. Poi non sempre magari mi riesce, però nel senso sì. C- c'è un molto lavoro sul testo, che poi il testo è la cosa che puoi fare anche in situazioni più disparate. Magari sono sul pullman che sto andando in università, mi viene in mente una rima, una correzione, e te la segni. Tu sei uno di quelli che se le segna, cioè giri con la penna e il foglietto in tasca o c'è il cellulare? E poi quando arrivo a casa butto tutto sul computer, perché i messaggi del cellulare può darsi che si cancellino, e quindi non voglio avere problemi. Ah, ecco, perfetto. Va bene, allora noi ti abbiamo conosciuto molto volentieri. Grazie per l'invito. C'è qualcuno in particolare che vuoi salutare, ringraziare? Ma come... O fare un saluto anche agli ascoltatori. Ma saluto gli ascoltatori, ringrazio una persona che mi sta ascoltando sicuramente da casa, che mi è stata dietro durante tutto il lavoro del disco, insomma mi ha supportato più umanamente che tecnicamente, che si chiama Serena. Ringrazio ancora Nemo, che non so se mi sta ascoltando, ma mi ha aiutato molto a crescere nel rap, diciamo, e anche nella presentazione c'era lui dietro i dischi, insomma, a fare il DJ. E poi ringrazio quelli che hanno collaborato e quelli che mi ascoltano, insomma. E certo. Allora, noi diamo una piccola pillola. È possibile che, insomma, ti risentiremo a parlare questa volta sulle frequenze digitali di Radio Bawalla? Sì, stiamo pensando. Sì, stiamo pensando di mettere su un programma di rap, ovviamente Creative Commons. Adesso valuterò bene, sugiamendo, cercando un po' di musica rap da passare, appunto. E perché no, chiediamo aiuto anche agli ascoltatori. Chiunque avesse idee, come al solito, ce le potete segnalare a noi su Facebook, cercate Faccione Verde di Wally, Radio Bawalla, oppure su Twitter, @RadioBawalla. Se no c'è il form sul sito, se no c'è la mail, radiobawalla@gmail.com. Insomma, sapete come trovarci, diteci le vostre idee su Tufu anche, e scrivete anche poi direttamente a lui. E mettete un bel mi piace anche a lui. Mettete un mi piace anche a me, rispondo sempre. Attualmente non ho così tanto seguito da poter dire non rispondo, perché esatto, mi tempestano di mezzi. Allora io direi che ti saluto. Sì, grazie. E ci sentiamo l'ultima canzone, che è Cyber Tufu. L'ho scelta io questa. Esatto. Con Federica. Grazie. Ciao ciao. Ciao. Discendente di Goku come Pan, Super Saiyan, ascendo, crescendo, rinascendo sulla via. Entro su base a scatti perché mi chiamo DJ Galleria. Combatto a Cell con un tela a scatti.